sarebbe oggi in bicicletta che è spento mentre stavo modulando, cosa può essere? Mi può dire, devi andare a comprare un altro. Abbaccio un po' la radio. Quanto sono? Vabbè, sono al monte, qua. Qui sono in alto io, Ciao Fabri, ciao Gianni. Quando comincia a fare tutto, vuol dire che ci vuole un alimentatore nuovo? No, ci vuole il dottore che lo controlli, perché quello costa anche un pochino per l'alimentatore. Io. Se si può aggiustare, lo aggiustiamo, se no lo compriamo nuovo. Eccomi qua, sono rientrato. Ciao Marco. Ciao Marco, abbaccia un po', sei troppo amplificato veramente. A me già piace, ma... Aspetta, va bene. Ciao Oca, questa è Tina Turner, c'è poco da fare, questo è sempre un best seller dei microfoni. Ancora troppo alto anche in questa posizione? No, adesso vai bene, adesso sei Tina con la voce giusta, anche bella amplificata, dai. No, poco fa stavi strappando, eri... non avevo capito veri tutti, stavo già per dire di cambiare canale. Ciao Marco. Sì, Tina Turner più 3, quello nero, produzione Turner nero con la scritta Turner in nero, più con, numero, con la sigla più e 3 col numero 3 proprio, 3B, come era il famoso 3B per mangiare i supplivi a Roma, va bene, e Vintage Fabri naturalmente, Radio Vintage, tassativo io, solo vecchi cafusi come me. Va bene, è entrato Claudio, passiamo a te dall'altra parte della collina. Ehi, tutti così siamo, anch'io, io sto andando con l'Elbex 4082, il microfono è l'MB più 5, potenza 10 watt della radio, vecchio baracco, KK, adesso sta andando bene Fabri, 9 più 30, vabbè qua sì, al massimo, è la radio perfetta. Marco, 3009. 3009? Belle cose sono. E tu Fabri cosa stai usando? Io un 440 che stavo sferruzzando veloce, stavo realinando lo stadio finale, quindi lo stavo provando. E dovrebbe andare bene. E quindi niente, perché poi lo sai che non sto più facendo niente, non ho più tempo di niente, già lo sai. Perché questo lo volevo fare, però sto impazzendo. Già lo sai meglio di me, cioè ci vediamo, quindi lo sai. Poi già ti chiama al telefono e ti spiega. Quanti volevo dire? Cazzo, tu hai la ragione, amico tuo, strilli troppo, cazzo, dilli, strilla di meno e allontanati dal microfono, perché è amplificatissima. Però non l'abbassare che va bene, è che ogni tanto gridi troppo, strilli troppo, come dice l'amico tuo, e succede quello che succede. Io a Marco lo capisco, si eccita quando modula. Hai ragione già, hai ragione. E prima ti allontani, Fabri, ma sai a quanto sono? Aspetta che te lo misuro, guarda, c'ho il metro e stavo facendo misura. Allora, guarda, vediamo. No, se te lo dico non ci credi. A 50 cm di distanza, precisi. È la prepotenza della modulazione, non c'è verso. La radio è bella, è un bel cicafuso americano. Il 457RS si chiama, 457RS della Realistic, di dimensioni un po' più grande del 440, di colore verde militare, con parti cromate, bella. E bisogna chiamarla quel grongo, di accendere qualcuno di quelle ciarabattole che c'ha. Adesso lo chiamo, aspetta che lo chiamo, riprendi Claudio e fa girare, che chiamo a Diabolic, l'ultima volta che l'ho lasciato l'altra sera era impegnato, aveva comprato 8 metri quadri di tessuto, si stava cucendo la tutina che la taglia che aveva gli stava troppo stretta. Ehi, un rotolo, da Diane è andato, ne ha comprato un rotolo intero e non gli è bastato, gli hanno ordinato altro mezzo rotolo. Io già l'ho visto da poco, ci vuole più a girarlo che a saltarlo, capito? O viceversa, per carità, come sta diventando. Se non si dà una calmata, tra poco è coppia. Io Marco avevo un Realistic verde, però non era per la 27. Può essere quello, perché era verde, mi pare che si chiamasse Realistic, però era VHF base. Marco al telefono, tanto tempo fa, quando ero W0. bellino esteticamente, però era VHF base 10 watt. Vabbè, riprendi Gianni, dai, e i baracchini bisogna farli andare, bisogna 80 di nuovo, adesso questo lo facciamo andare un po', questo Elbex, poi ma passiamo al dati, o se no al Milan, vai già. Postazione 2, Saturn Echo. Già va bene. Marco, dove c'è il telefono Walter? Avanti Fabrizio. Eccomi qua, no, mi stavo mandando un messaggio che devo fare acquistare a Walter invece di fare minchiate e gatto alimentatori, che ne ho ordinato due di, ho ordinato due io, altri due li ho messi a disposizione perché uno ci serve per un ponte e l'altro per il coso, come si chiama, per un po' per il ponte radio del comando dei vigili dei tiri che stiamo mettendo a posto, e quindi ancora un po' rimango senza alimentatori io, dandone uno all'altro. E io ti volevo dire una cosa, ma visto che hai detto che lo stai più facendo nulla, non te la dico almeno, dai, lo porterò da qualche altra parte. C'ho questo alimentatore, ragazzi, che mi ha dato da 50 ampere, non riesce a 300 watt e non riesce ad andare avanti, fa tu, una cosa del genere, e poi si spegne. Bisogna vedere se sono reali quello che dice l'alimentatore, anche quello, cioè tu devi arrivare a un certo punto, se lui va bene, tu inizi a clippare, vuol dire che non ce la fa lui, che quello che c'è scritto fuori sono balle, mi capisci? Ma c'era Claudio uguale, mi ha detto che ha pilotato pilota lineare e cose del genere, non gli fa mai niente, questo qua, e adesso che me lo sta facendo, perché prima andava bene. E avere un carico o qualche, non lo so, così io poi sono switch, Io ce l'ho uguale, fabbrico l'alimentatore, il Prox è il 50-65, cioè no, 50-60-55, ce l'ho 6 anni, non mi ha mai creato problemi, boh. Non lo so se come dici tu l'amperaggio è giusto, i voci sono giusti, però ha sempre funzionato bene. Lui attacca un lineare che può avere un assorbimento di 15-20 ampere e non ce la fa a portarlo. Permesso? Allora ho mandato il messaggio a Diabolic, che era nelle vesti del marito preciso, facendo la spesa, imbustando, e mi ha detto di salutarvi e che appena rientra accende e entrerà anche lui. Va bene, c'era anche Michele Spolverone che mi saluta pure lui, ma Michele mi ha risposto in VHF. E Gianni, ti ho sentito io per quanto concerne quel problema, io ho avuto problemi tipo quelli di un alimentatore, non da switching, di quelli della di Proxel forse proprio, quello con gli strumenti piccolino, da 30 ampere, no, da 25 ampere, e anche quello faceva, è cominciato col problema che faceva il tuo, cioè quando certe volte lo accendevi andava in protezione, faceva e rimaneva con le luci spente, eccetera eccetera, le lancette che a metà più o meno, e poi lo spegnevi, gli spegnevi il interruttore, toglievi la spina, toglievi la corrente, lo riaccendevi e poi stranamente funzionava, per un po' funzionava, però me l'ho reso conto che era già un po' come una mera guazza. E allora, tra l'altro, Fabrizio gli aveva anche dato un'occhiata, una salpa e un sarego, ma non c'era verso, e allora le è stato messo nel cassonetto della mondezza, perché poi c'è il pericolo che con queste cose si brucia la radio, quando sono così nel cassonau e non c'è verso. Quelli classici, tradizionali, sicuramente più facile da intervenire e da mettere a posto, quelli switching sono un po' un problema, e mi ricordo che anche Fabrizio aveva guardato, infatti aveva fatto con la testa così da destra verso sinistra, come a dire no, non ve ne sei. Va bene, antenna allora a occhi di gatto, per il questo Marco Scorpion dalle alture del monte, oh yeah! Sì, è così, come ha detto Marco, diciamo devo essere sincero, ultimamente ho avuto un po' più di dimestichezza sugli switch, Marco, sto iniziando anche a ripararli, devo essere sincero, qualcosa, quelli che costano 12-13 euro, 18 euro, quelli da 30 ampere che usiamo noi, ogni tanto si fulmino, più o meno ne ho riparato più di uno, devo essere sincero, ma non so come, costano più i finali della della macchina, non ne vale la pena, te lo sto dicendo, è che ne ho trovato un bel po' in Cina, e mi sembra sono i 309, ne ho trovato in Cina e ne ho comprato un po' di questi, quindi sai lì, ci mettono un mese, una mezz'ora ad arrivare, sono arrivati, oh lo sai che li ho riparati, uno l'ho prestato in Banare Cardino, anzi gli ho regalato, l'avevo riparato di quelli, un altro me l'ho riparato e ce l'avevo su, in genere partono quelli e li ho cambiati, però perché? Perché gli ho fatto un ordine in Cina, li ho pagati 2 lire Marco, li ho presi così, sai quelli che ci provi, ecco, faccio un esempio, sto riparando l'analizzatore di antenna e ce l'ho capita la seconda volta che l'ho fottuto, se ti guardi lo schema poi alla fine vai a capire il motivo, ma lì dall'istruzione ti dice di fare in una certa maniera, ma c'è un componente praticamente che resiste fino a 15 volt, poi ho visto che quando tu accendi arriva diretta lì la corrente, e lo credo che a 16-17 volt come ti dice di caricarlo lo fotti. Per esempio, lì io sto comprando lo stesso componente, però con una resistenza di 20 ampere. Al momento, quello che mi arriva prima lo monto. Per esempio, voglio dire, un rotolo da 50 di quei lì, perché ecco, li paghi, 6 euro spediti mi vengono. E qui ne sto spendendo per prenderne 5, che vengono intorno ai 12 euro spediti, capito cosa ti voglio dire? Cioè, se li prendi in Italia, ti costa tutto molto, come quando fai la Fujaro, li prendi dalla Cina, devi aspettare per una mezz'ora. Poi ti arrivano, infatti, di quei componenti, tornando al discorso, ne avevo preso un po' e quindi alla fine anche se ho speso penso, un euro di cose, invece di spendere 8 euro da lì, ne ho speso un euro, li metti lì, lo ripari. È un po', ti ripeto, un po' di più, però è come dici tu, cioè non ne vale la pena perché costano molti componenti, perché l'unica è smontare, controllare quando non funziona quelle cose solite che controlli, e se non funziona non ne vale la pena perché ci butti ore sopra di lavoro, magari compri i finali, compri quello, alla fine fai un giro di conti, già lo sai quanto costa, non costano più niente questi alimentatori. È così, ma io ne voglio uno, Fabrino, ne voglio uno che mi supporti lineare da 300 watt e manda laterale pure. Compri quelli da 50 ampere, ho già, con 22 euro, con 22 euro, 23 euro lo compri da 50 ampere, ha voglia a pilotarlo con 300 watt. Bravo Marco, così, proprio così devi fare. Però io ho tutto modificato, capito? Non c'ho capi davanti, poi gli ho messo il tastino d'accensione, gli ho messo gli attacchi dietro, quello rosso e nero, è un po' modificato, il cavo passa dentro, ho fatto il foro. Poi se lo vuoi fare, non lo compri, te lo faccio io. Mi dai un paio di, cioè un giorno buono di tempo e te lo faccio con calma. Non le piace, non le piace. Io c'ho un robo nuovo, ho fatto la scatola, una 50 ampere, che mi ha comprato PCO. Ok, me l'aveva fatto avere PCO, 25 euro, 50 ampere. E non è di quelli comprato qui dai cinesi, comprato su internet, un po' più robusto, un po' più grande, capito? Col cavo, perché non c'hanno neanche il cavo di alimentazione, e gli ho messo il cavo di alimentazione con l'interruttore suo direttamente nel cavo, no? Tipo quelli delle Baijiu, così grosso, e funziona benissimo Gianni, funzionano molto bene con gli alimentatori. Ti ho detto, io c'avevo lì al collegato il B300P col baracchino e lo portava tranquillamente, in quel lineare, quel alimentatore c'è tu, c'è un problema di fondo che poi alla fine bisogna vedere se si può riparare o meno, se bisogna partire la mondezza, tutto qua. Comunque io l'ho pagato 15,99 più 5,99, 22 euro mi è costato praticamente. E ti posso dire che va benissimo. Boh, vedi tu, cioè, come vanno bene già. Poi se non lo vuoi in vista, guarda che sembra così. E basta una volta che gli metti il tastino d'accensione più carino, luminoso. Non so se hai visto il mio, l'hai visto il mio già? No, non l'ho visto. Vabbè, quando fai un ordine me lo prendi uno. Le cose alla grande, ti prendi l'alimentatore e poi ti compri un case che li vendono già fatti in alluminio carino, gli fai fuori, ti metti direttamente le boccole del rosso e nero, gli metti l'amperometro e il voltmetro digitale, ci spendi una trentina di euro, 40 euro, 50 euro, ma hai sempre speso 50 euro più 20, 60, 70 euro in tutto, ma hai un alimentatore a 50 ampere con l'amperometro, il voltmetro, digitale, bello, con la sua scatola e con tutte le cose, se lo vuoi fatto così. Ma tutto male che vada lo posso mettere dentro dove c'ho quello che è rotto, ci metto l'alimentatore all'interno e si fa andare con gli strumenti che c'è. Li smonto quello che c'è all'interno e li metto là. Scusa un attimino, guarda che mi ha mandato la foto su WhatsApp. Guarda, come io questo qua lo posso anche nascondere, non si vede niente, lo metti dietro, l'attacchi, ti procuri due staffettine piccoline e gli agganci da qualche parte, non si vede. E poi lo colleghi alla ciabatta, lo accendi e ti mette la ciabatta. Comunque per me vanno benissimo, poi posso escludere, siccome avendolo vicino la ventola la senti, invece magari mettendolo dietro no, perché ho fatto già la prova, infatti adesso l'ho esclusa la ventola, non c'è manco bisogno con questa fredda, voglia che era fredda, poi d'estate ovviamente scalda di più. Niente, se lo vuoi fare me lo puoi sapere, si fa, dai, riprendi Fabrizio. E ti dicevo, ho detto Marco, devi appensare, io me lo volevo costruire, ne avevo comprato due di alimentatori da 50 ampere, dimmi dove sono, non lo so, mi sembra uno l'ho bruciato, quindi, come ha detto Marco, ce l'ho buttato perché non voglio mettergli mano, perché non ne valeva la pena. Magari era anche prima che avevo fatto un po' meno esperienza, però comunque adesso magari avrà anche controllato, però ce l'ho buttato. L'altro non so se l'ho dato forse per qualche ponte, mi sembra, così c'è uscito, non me lo ricordo, ce l'avevo sempre in cameretta, i bambini appoggiati, devo fare quel lavoro, ho detto Marco, una scatola, prendere una scatola, metterli dentro, fatta carina, mettere gli strumenti, quelli che vendono, blu, amperometro e volmetro, blu, bellini, no? Quindi in più non come vi ho sentito l'altro giorno, perché ho sentito volevate fare accoppiarli, cacchio, non è che non li accoppiate così, mi è caduta una vite, maledizione, non li accoppiate così, ci vogliono dei diodi, se no rischiate di fare danno. E lì si può fare anche dei commutatori per creare la 24 e la 12 volt, con un interruttorino di quelli carini colorati, una ventola messa esterna con un termostato che parte quando deve partire, oppure che regola la velocità, c'è sempre una cosa che, come detto Marco, prendi due connettori, gli scrivi e ci metti quello rosso e nero e ci fai seriografare 24 volt e fai il 24, puoi fare il 2, però ci vogliono anche una serie di diodi, qualche filtro, qualcosa lo devi fare, non lo metti così, come vi ho sentito l'altro giorno, e no, lo bruciate. No, ma io stavo pensando di utilizzare la scatola dell'altro che non funziona, cioè funziona, si accende tutto quanto, però fa quel problema, se non si può aggiustare tolgo la parte interna e ci metto l'altra, tanto ci dovrebbe stare perché è abbastanza grande. Sì, però non è che li usi così con gli strumenti, non è che mi attacchi gli strumenti, capito? E il voltometro già una fesseria, prendi i capi, positivo e negativo e li metti ai mossetti che vanno direttamente sull'apparato, sulle cose che deve alimentare. Per l'amperometro magari no, ci vuole un circuitino, ma comunque almeno parzialmente e velocemente lo puoi fare, smonti tutto, smonti via, ci metti dentro quell'altro e esteticamente è già un'altra cosa, insomma, se non vuoi vedere quella scatola in alluminio che è un po' povera, io quelli lì li uso e ne ho diversi, ma in effetti li tengo, anche io ho fatto come ha detto Luca, ci ho messo l'interruttore, ci ho messo il LED anche per vedere il LED verde acceso, vabbè, ma sono cose che piazzatine che si possono fare, io li metto, non sono visibili, ce li ho dietro un mobile, non me ne frega niente di tenerli iniziati, mi occupano spazio, mi danno fastidio da mettere, mi tolgono spazio a cose più utili piuttosto che vedere questo affare, però invece capisco che magari non tutti sono così, mi piace vedere, li metto fuori e te lo puoi mettere dentro la scatola, butti via tutto quello che c'è dentro, recuperi con la scatola, ce lo stacchi dentro e sei a posto. Sì, conviene fare così, adesso io sto cercando una vita, conviene fare così, però comunque Marco, non è così semplice collegarlo, c'è tutta una schedina, non è che colleghi uno e funziona come pensi che sono i classici quelli che compri, che dentro c'è tutte le sue cosucce, non lo colleghi così, se anch'io ci avevo pensato, poi quando li ho smontati l'ho visto com'era, anzi ci voleva anche studiare per recuperare quel pannellino, però non è che lo colleghi e lui funziona, io ce l'ho un pannellino, se non sbaglio forse, è il pannellino di quello che avevamo demolito dentro, che l'avevo buttato lì, che lo sai che io conservo un po' tutto, e con quello volevo proprio fare le prove se riuscivo a fare un circuitino per poterlo alimentare e vedere di avere gli assorbenti e come vuole fare la cosa, però non è che colleghi così semplicemente, non l'avevo visto e l'avevo conservato per quello e adesso bravo me l'hai ricordato, quando avrò tempo me lo cerco, se ce l'ho ancora lo porto giù e ci gioco a vedere se riesco a realizzare qualcosa, perché potrebbe servire un domani. Sì Fabri, quello lì è, sì me lo ricordo che non è quello, c'è uno strumento di pochi milliampere e c'è tutto il circuitino che è già sulla schedina dove c'è l'alimentatore vero e proprio, quello sicuramente no, ma dico smonta tutto, smonta anche il frontale, cerca in internet uno strumento che tanto quelle dimensioni, quegli strumenti non sono mai fatti solamente per quello strumento, ce ne sono strumenti voltmetri già fatti con quelle dimensioni lì, lo cerchi con quelle caratteristiche, se no guarda RS Components o queste aziende che vendono componenti elettronici e trovi il voltmetro già fatto, bello digitale, magari se ti piace digitale o analogico, e delle dimensioni del foro che hai nella scatola già fatto e ce lo attacchi e hai risolto. E così ti viene carino, dentro ci metti tutto l'alimentatore intero, non devi fare niente, il capo della 220, ecco al limite c'è solamente da fare un rinvio per la fase per l'interruttore on off, prendi l'interrutturino da pochi ampere da 220 e gli rimani indietro la linea sulla morsettiera e sei a posto. Se poi vuoi fare esagerare ci metti anche il LED, le luci che prendi dalle boccolette di uscita della 13.8 e gioca, fatto, ti viene bellino esteticamente con due spiccioli. Ma guarda che c'è già pronto Marco, quello che c'ho io è già pronto, c'ha il LED che quando lo accendi si illumina, ti ripeto, l'interruttore anziché applicarglielo, vendono già il cavo di alimentazione con l'interruttore accende e spegni, quindi io l'ho preso così, gliel'ho collegato e c'è tutto a posto, la 220 eccetera, poi per il resto io lo uso così di scorta, però siccome a lui piacciono con gli strumenti lo può fare come hai detto tu. Ma a Gianni gli piace vederlo, bello, carino, visto che c'è già quello lì, recupera tutto e non gli piace così come ci hai fatto tu, ha ragione, se lo deve mettere lì nel mobiletto dove c'ha le radio, in attesa che sia pronto un monster shack, già, quando è pronta la mia azienda che fa gli shack anche per gli apparati CB, ti vai su www.monstershack.sk e ti ordini lo shack fatto apposta per le radio che hai, e così hai una stazione professionale. Va bene Marco, preparati, allora farà bene avanti questa storia. E che i cartoni stanno andando avanti, tra poco ci saranno i prodotti in vendita, inizierà con le radio amatoriali e poi ci sarà, però il rack e tutto quello che è il sistema si può comprare e fare per qualsiasi tipo di apparecchiatura, che siano CB, che vecchi, vintage, nuovi, recenti, del passato, Drake, quello che è, qualsiasi cosa, che siano poi anche oscilloscopi, alimentatori, quello che ti pare ci metti dentro, non c'è problema, e se compri 10 pezzi ce li hai sempre, smonti, ripiatti in qualsiasi contesto, lo puoi riciclare, cambi le radio, cambi solo i frontalini e stai andando, c'hai sempre il mobile bello, carino, senza fronzoli, senza cavettini, senza questi pasticci di una roba sovrapposta, mensolette fatte dal falegname di un colore, di un altro, tavoli di tocciolare, una cosa fatta bene, tutta nero opaco, con effetto giusto, come deve essere in scatola di montaggio, con cacciavite stella appiatti tutto, vabbè, detto. No, già l'hai vista la foto. Marco. Sì, l'ho vista. Ordinamelo, cosa vuoi che dica? Se per caso tu fai un ordine e devi ordinare la tua roba, me lo ordini e me lo fai come il tuo. Già, ordinamelo. Dovrei mettere i soldi dentro la carta, non ne tengo i soldi nella carta io. Già te ne do io i soldi, quello è un problema. Comunque dovrei fare qualche ordine, ti avviso comunque, dai. Sì, 22 euro alla fine, cioè 22, fanno 25, dai, una cosa mettete in cui non lo so, però è un 50 ampere. Quello che mi avevo dato prima invece, un 20 ampere, la scheda, come ha detto Claudio, scusate, male è stato comprato qua, roba cinese, la scheda, come si chiama? Era, quella c'è all'interno, no? Era strana, non era, invece questa qua è più massiccia, cioè è proprio la scheda fatta o meglio, mi capito? Ma la borsetta era già abbastanza larga, perché c'ho cambi da treni, di quelli grossi, di quelli che si usano per gli impianti al wifi, quegli impianti. Sì, perché quelli che compri qua sono della Cina Nord, quelli che compri invece in rete sono della Cina Sud. Sì, già sono abbastanza, io ci ho messo un cavo da 1,5 mi sa dentro, un cavo da 3 mi sa che c'è dentro. Non ti preoccupare per quello, forse è quello il problema. Vabbè, per il momento uso quello, sono per l'amplificatore e il resto penso l'altro. Così quello lì se lo metto a parte, buonanotte. Quando trovo qualcuno che me lo fa aggiustare, se si può aggiustare lo aggiusto. Allora, io non ti ho detto che sono diversi internamente, io ti ho detto che il case è diverso, perché io ne ho due. Uno c'è il case molto più piccolo e più fine come la Mirino, invece l'altro è un po' più robusto e più grande, capite? Però varia anche l'amperaggio, perché uno è da 50 ampere e l'altro è da 35 ampere, quindi sicuramente è per quello. Non ti ho detto che sono io, non l'ho manco aperto, non so manco come è fatto dentro. Ho detto Marco. Eccolo, per il resto c'è Mastercard. Ehi, dimmi mica. Ho detto, io sto stando col DAC, no? DAC MB+5, ma il tuo DAC che fine ha fatto? È in viaggio, sta arrivando dal mare. Ah, allora ho capito, vabbè scusa un attimo, ho capito per quanto riguarda la scheda all'interno. Comunque te lo posso garantire io, che quello che mi hanno dato, il primo, c'è una scheda bruttissima, brutta, proprio ci vede roba cinese, saldature fatte brutte. Perché questa qua sembra più serio come scheda. Ma non lo so, lì ti può rispondere Fabrizio, che ti ripeto, io non l'ho mai aperto, ne ho due, funzionano perfettamente, solo che io con il lineare, quello trasferizzato, uso quello da 50 ed è un po' più robusto come case, basta, però io dentro non l'ho mai aperto, non lo so. Adesso non mi dire che il DAC tuo è ancora da Massimiliano, Marco. No, il DAC mio è qua a casa, ce l'ho qua assieme a una catazza di altri in base. Proprio a te, mi ce ne ho due belle bestie che di quelle che piacciono a te, proprio a fianco. E qua Massimiliano ha fatto tutta una parte dei lavori, molto importante, però c'è da completare ancora. È Margherita adesso per farlo completo, capito? E al momento adesso ci vogliono le olive, ma già arrivano, il prosciutto te lo porto io, capito? Comunque sto provando questo qua, già hai capito l'apparecchio che sto provando, che sto usando? Sì, in coso sì, ti ho capito, perché me l'ha accennato l'altra volta quella persona là. Va bene, adesso scalda. Cosa scalda? Adesso va bene, adesso regola tutto. Lo sto usando da quanto? C'ho la mano nemmeno me la scalda, perché sono con 10 e 40 modulati adesso, e quindi sta andando, dai, peraltro. Ecco, comunque anche questi strumenti non servono a un cavolo, questi cavoli ogni tanto. Oh, vabbè, secondo me sono partito, me l'aveva già visto questo cavolo strumento. Va bene, come è Marco? Qua bisogna. Io ce li ho quelli da laboratorio, ma sono negli alimentatori che massimo 5 ampere assorbono. Io devo costruirmelo come lì, un bel fatto bene, con due strumenti seri, perché serve per l'assorbimento. Sì, quello lì è. Benissimo Fabri, va bene, ma infatti glielo detto, stai sereno, fai insomma le cose che devi fare, fatelo controllare, vedi un po', sicuramente, sai, quelle radio lì sono così come avevi detto tu una volta. se le segui va bene, se no Ciccio, io ho avuto un po' di fortuna che il mio sta sempre andando, il 430 lo stesso, avevi solo sostituito il display, ma avevi detto anche che è un po' vecchiotto all'interno, ma sta sempre andando, però è chiaro che sono radio che hanno la loro età. Aspetta un altro, quindi il DAC non lo stai usando, molto bene, no, a me mi ha dato le valvole, mi ha procurato le valvole perché era completamente a zero, le due valvole di trasmissione, e me le ha procurate Gianni Capri, gliel'ho messe, ha una potenza intorno ai quasi 25 watt in AM, quasi 50 in SSB, e ti dico che ce l'ho sempre acceso, sempre bello costante, comodo, e vamos alla play, adesso sto andando con quello, e va molto bene, vi ascolto magnificamente bene. Avanti Gianni, riprendi. Boh, Gianni non riprende. Adesso ho ripreso con quest'altro apparato. Dai, vediamo come funziona questo. Però devo abbassare qua, perché se no, eccolo qua. Vediamo questo come funziona. Il DAC praticamente è stato tutto revisionato all'aspetto estetico, è come nuovo, è come nuovo, ma proprio come nuovo, perfetto. Da te manca qualche scritta, un po' c'è cioè quelle cose cancellate, ecco qua è tutto rifatto, perfetto, con tutte le scritte, con da A alla Z, quelle coppigliette delle viti, le viti, tutto restaurato, le scatole, lo stesso, tutto restaurato, eccetera. Massimiliano ha ricostruito tutta una parte del circuito che prevedeva la commutazione, l'indicatore dei canali, no? Sul frontale, che alcuni segmenti non andavano, eccetera, quello ha rifatto tutto nuovo, ma proprio nuovo, nel senso che ha fatto proprio il circuito nuovo, il circuito stampato nuovo, l'ha rifatto alla Z. In penisola mi avevano riparato la parte, alcuni c'era un compensatore che non si trovava, sono riusciti a recuperarmelo, adesso c'è le valvole, cioè sono nuove perché le valvole erano state rimesse nuove, c'è solamente da fargli un ulteriore controllo, ma non ho avuto possibilità poi con questa cosa del Covid, dei problemi vari, di mettere in macchina e partire, perché devo assolutamente spedirlo, non mi va, dovrei mettermelo in macchina e portarlo per farlo rimettere, allineare, controllare, rivedere, fare i test e ritirarlo perfetto. Ricostruiti i frontalini, i vetrini che uno o due, adesso mi ricordo, erano danneggiati, riparati gli strumenti, cioè insomma un lavoro di revisione veramente completo. Ci ho speso già una cifra, ma la finirò quando ho la possibilità di partire, di portarlo fuori, perché è troppo grande, è troppo pesante tra l'altro ho anche paura che poi parte e poi non ritorna invece lo voglio accompagnare. Questo è un'altra parte, non so come sta uscendo, poi mi direte. No, il mio non è nuovo lo stesso, il mio aveva un problema, se ti ricordi, del potenziometro, non mi ricordo se era del clarifero o del cambio AM, USB, LSB, che era storto, l'ho comprato nuovo, me lo sono fatto cambiare, sostituire, ed è perfetto, le scritte ce le ha tutte, c'era qualche lucetta di quelle a siluro, sai che c'è le luci a siluro negli strumenti, me le ha ordinato da Fusaro, le ho messe nuove perché sono a saldare. La radio è perfetta, già tutte le scritte, tutta, io ho solo cambiato qualche rondellina, qualche vite, tutte belle cromate, lucidissimo, perfetto. E c'è un funzionamento pazzesco, molto molto molto interessante, solo che diciamo che la uso poco, ma in questo periodo la sto usando parecchio. Va bene, avanti a chi tocca. Gianni doppio deve essere al telefono con Luca. Avanti Fabri, riprendi. Quindi stai facendo tutte le prove, tutto a posto, dai. Fabrizio al telefono lo stesso. Va bene Marco, ti ricordi, questo è quello che avevo preso, che praticamente Walter aveva dato a Daniele, io l'avevo preso a Daniele in cambio di un'altra radio, ma anch'io ci avevo fatto alcuni lavori, alcune cose, però le scritte sono tutte perfette, no, non manca niente, interruttori sui originali, colore ancora originale, aveva un graffiettino nel case in alto, però l'ho lasciato così, l'ho appena ritoccato col pennarello indelebile. 50 euro te le do io, dai. Ciao, buonasera a tutti comunque. Non hai soldi a comprare il DAC, tu anche se c'hai soldi, ma per comprare il DAC non ne hai, vale a dire che non te lo darò mai e poi mai, hai capito? Bello bene. Avanti Robert, riprende, fai girare, c'è un break. E facciamo vedere avanti il break, ho sentito a te e a Marco, poi non so se ci sia qualcun altro. Avanti il break. Anche il tedesco sa parlare, buonasera. Ciao Claudio, ben sentito anche a te. Cosa hai detto già? Ho detto anche il tedesco sa parlare. Chio da Ruggirito. Ce la sta mettendo tutta proprio. Buonasera a tutti comunque. Ciao Roberto, ero in ruota, vai dal telefono. Ciao anche da Ruggirito. Ma te che sono di segnale? Posso riprendere? Andole muchacho. Ok, no, puoi evitare che parliamo in 2, 3, 4, 5, sì. Va bene, ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato, cordialità e saluti. Il cambio per Marco Scorpion, avanti. Ciao Roberto, ciao Claudio, buonasera, ben arrivati. Questo è Claudio Sparviero e cosa dire, niente, quella radio è non bella di più, è una delle più belle radio della banda cittadina che abbiano mai costruito, assieme al Simba e poi no, sicuramente il tram, il 201A, sono il DAC e il 201 tram sono le fra le più belle in assoluto. E poi ce ne sono altre, ma va a seguire, ma sicuramente la numero uno è il DAC e il 201A, perché poi ha delle caratteristiche uniche per quel tempo e per quella frequenza, visto che ha la possibilità di sganciare dal canalizzato, sganciare a VFO, a due manopolone, una canalizzata, perciò vai coi canali 40, sotto sopra 40, e con l'altra invece sganci il manopolone, l'altro manescione, e vai a sintonia continua, perché è una cosa che solamente questa radio ha, con queste caratteristiche valvolare, poi è veramente un bestione, un bel bestione, come il DAC, però il DAC è anche in verticale, invece il 201 si protende in larghezza. Sono due belle bestie, e io ce l'ho tutte e due, sono tutte e due belle nuove di zecca esteticamente, e il 201 ricordo che adesso è fermo da un po', ma era già a posto, è già stato fatto revisionare, adesso non mi ricordo, quello l'avevo fatto fare da coso, da accidenti, come si chiama, che si era separato, c'era il negozio con l'intestata la moglie, adesso non, da Pavanello, sì, mentre il DAC c'ho ancora alcuni, come ti ho detto, alcune cosettine da rimettere a posto. Di Simba ne ho due, anche quella è una gran bella radio, due delle versioni che avevano fatto insieme, di Simba ne hanno fatto veramente più di due di versioni, perché sono modelli con le maglie nere, modelli con le maglie cromate, modelli con una manopola in più, che adesso non mi ricordo se c'ho il tono in più o in meno, però sempre con lo stesso case, come dimensioni, come forma di massima, con un potenziometro in più. E vabbè, questa è la situation. Bene, allora sentiamo se Fabrizio ha finito di mettere fuoco a qualche circuito stampato, e dopodiché credo che il cambio lo aspetti per Roberto Quadrato. Per il questione Marco Scorpio. Sì, riprendo io. No, stavo facendo una telefonata e mi è scesa anche la lacrimuccia di quelle telefonate. No, dovevo andare per forza, dovevo allontanarmi un attimino. Sì, adesso passo. Robè, io quella roba la sto sempre controllando, è già il terzo componente che cambio, andando per la catena, adesso ne arriverà un altro, lo provo, se continua a essere sordo da tutte le parti, eccetera, e continua a trovare nella catena altra cosa, basta, ogni 20 giorni, 25 giorni per ora di arrivare un cavolo di transistorino, e poi niente, la chiudiamo, e la metto in vendita su eBay, e si spiega proprio i due problemi che c'ha, e chi ne ha voglia continuerà come me a fare la riparazione, roba, e te sta facendo perdere la testa. Riprendi Roberto. Mi dispiace Fabri, lascia Fabri, allora se è troppo complicata la storia lasciamo perdere, poi ci mettiamo d'accordo per il disturbo, là. E mi dispiace che la cosa così, non pensavo fosse così grave. Va bene, ok, sei un po' saturo Fabri, ti sento, come mai? E tu sempre Roberto, perché io uso sempre questa radio qua, vabbè, posso abbassare poco anche tu, abbassato poco, ma è sempre il problema del 440 che noi siamo troppo vicini, tu poi mi senti sempre saturo, è così. No, vabbè, non niente, cosa disturbo, fregate, non ci mancherebbe altro. L'unica cosa che bisogna bisogno in questi giorni, che faccio, che mi avevi promesso uno di quei fianchetti, perché uno l'ho già preparato, sto finendo di piazzarmi questo ciao e mi manca un fianchetto, l'altro l'ho recuperato, sono riuscito a ripararlo e tutto, l'ho anche già verniciato, e mi serve quello lato, adesso non mi ricordo se è quello lato rubinetto della miscela o quello, non lo ricordo, o quello dall'altra parte, non mi ricordo se il destro o il sinistro, devo solo guardare, non vorrei sbagliare ma non me lo ricordo, inutile che devo guardare qual è, in uno di questi giorni se ce l'hai passo e se me lo dai quello mi fai un favore, così io me lo rivernicio, me lo metto a posto, che è l'unico pezzo che mi manca di quella moto. Passa quando vuoi, guardiamo, ce n'è qualcuno, adesso non mi ricordo se il destro o il sinistro, ce n'erano un paio graffiati, ma già si possono riprendere, perché io stavo cercando quello bianco, però non l'ho trovato. Che colore hai fatto, Fabrizio? L'ho fatto blu, quelle blu celestino che faceva, però facevano solo in 3-4 colori quello lì, quel modello, però facevano blu, bianco e questo celestino e basta, il rosso, forse il rosso, ma non credo il rosso, comunque quelli erano i colori, e poi non sapendo il colore, la verità, io l'ho tutto preparato, ci ho saldato, ti ricordo che il parafango mi ha dato tu, saldato, fatto, guardate il fondo, e come adesso te lo porto da un amico, da Paolo lo porto, già lo conosci, Paolo Serra, e me l'ho fatto spruzzare, e il colore lui dal suo tintometro gli ha dato il codice, tutto quanto, e gli ha fatto fare la vernice, ma ti guardando sembrerebbe più o meno lei la vernice, però non sapevo come risalire al colore preciso, però mi sono fidato nel 72 mi sembra, col graffiaggio, il 205, ha fatto tutto e gli ha dato quel colore, quello gli ho fatto. E se c'è qualche problema, quando vuoi avvicinati, poi per i fianchetti c'ho qualcosa, non mi ricordo se erano dei doppioni di un lato, o due di un lato e uno dall'altra parte, comunque volentieri non c'è problema. Ok, facciamo riprendere a Marco, così ci dice che radio sta usando. Avanti Marco. 5 stelle, ma c'è anche Luca, qua il mio vicino, sentiamo a lui. Sto provando un 725, 725, 725, col microfono, suo microfono da palmo. E, segnali sono tutti fortissimi, vi ascolto molto bene, anche come qualità di ricezione mi piace come si sente qua in questa radio. Sentiamo se c'è anche Luca, dopodiché dovrebbe il mic, aspetta Claudio, da Muros se non ricordo male. Vediamo se c'è Luca qui dal monte e altrimenti l'antenna Claudio. Vai Claudio. Non si dice. Te l'avevo detto io. Ehi, non facciamo troppa pubblicità, ce la restano a tutti qua. Vabbè, come non detto, dai. Vediamo un pochettino, c'era anche... Ma infatti io ho il telefono in linea, scusate. Già la sirena si è sentita? Adesso sono venuti a prenderti. Non è possibile, allucinante. Ma io guarda, è capitato un giorno che ero in officina da lui, parte questo telefono che c'aveva nella scrivania, ma dove sono le carabinieri? E la sirena era il telefono suo, perché mi sono girato, mi sono anche spaventato, dove è successo? E invece era il suo telefono, una cosa allucinante, ma quando mai voleva avere la sirena e il telefono, roba da matti. Comunque Fabri, lascia perdere Roberto, io ti ascolto, non bene, di più, con tutti i baracchini, ho commutato anche il K, sei perfetto, non sei saturo, sei perfetto, come che stai parlando qua? Lo so, lui ha questo problema, siamo molto più vicini, adesso mi dice, ma lui è sempre così, con tutti, a lui non gli piace sentire che gli sfonda la cassa, capito? Lo so già, è così. E a me Luca, se mi ascolto, Luca, Claudio di Muro, sono avanti. Così forte arrivi. Grazie a voto. Sono rientrato comunque. No, ma Fabrizio, con Fabrizio sei più vicino a me di lui, lui è dietro, è molto più dietro, io sono molto più vicino a te, quindi dovresti saturare più a me che a lui, ma io ti ascolto magnificamente bene, roba, io lo sento benissimo a Fabrizio, tu non ho capito perché lo senti saturo, sto usando il baracchino più scaccino che ho, l'Elbex 4082, questo è un vero baracchino perché è un vintage, sì, però è veicolare, l'ho messo giusto per farlo andare un po', perché ne ho 2 o 3 nell'armadio, sto usando solo i base, i veicolari sono tutti abbandonati, quindi ho montato questo adesso e lo sento veramente molto molto bene, ho commutato e va benissimo anche con questo, quindi non so, vabbè. Gianni, riprendi che sei in bianco, vai. Ehi, vabbè, prendo il telefono, stavo cercando messaggio. Comunque ha fatto tutte le prove con questo alimentatore, va benissimo, anche manda la terapia. Ho detto che vanno bene, esteticamente sono bruttini, anche quello che stavano parlando poc'anzi, però se tu lo nascondi, lo metti da una parte, io ce l'ho sotto la scrivania, non si vede neanche, lo uso quando lo devo usare, però funzionano molto bene. Sì, vabbè, già me lo ordino uguale, non ci metto molto. Io ce l'ho 6 anni il Proxer, ti ripeto, non mi ha mai dato problemi, uguale a quello tuo, il 55-60, tempo fa ci erano attaccati 4 HF, non mi hanno mai dato problemi, adesso non c'ho più niente, però dico, è andato sempre bene Gianni, non ti posso dire il contrario, evidentemente lì c'è qualcosa che sta andando a farsi fottere, capito? Il cambio per Marco, anni. Marco? Marco, cosa sta uscendo? Marco, forse non sta uscendo di radio, eh? Marco sta collegando radio a tutto andare, baracchini, però questa non esce, Marco. Cappa, c'è il microfono, eh? Boh, non lo so. Vabbè, riprendi tu e fai girare, dai, che intanto io inizio a vestirmi per sistemarmi il cane, che sono già le 8.25, comunque sono qua, è tutto acceso, vai Roberto. E io riprendo io. No, Marco, se ci non stavi uscendo di radio, c'era il segnale molto forte, naturalmente è una buona posizione, non so che antenna stai utilizzando. Ok, ti rilancio di nuovo il mic, se mi hai ascoltato, se no riprende Claudio Damuros. E ancora non sono pronto, sto mettendo la batteria, adesso la suono tra poco, qui del microfono a tavola. Eia, ok, vai Claudio Muros. Il segnale è poco meno di 9.20 e la radio 5 è pulita, chiara. Niente da eccepire, probabilmente ti stai anche aiutando perché è un segnale un po' più alto del normale, confermi. Sì, stavo mettendo la batteria al microfono e ovviamente senza batteria non va di modulazione. Qua adesso sto utilizzando l'SBM, il console 2M, Claudio, quello che piace anche a tuo padre, con il microfono, l'SBM sul microfono da tavolo. Questa è la situazione, i watt non sono pochi, sono tanti, non sono pochi, no, ecco, però sta viaggiando, sembra che funzioni bene. Ok, io l'antenna la ripasso allora a Gianni, doppio room, lasciando a mare un attimino di bianco, vediamo se riprende Luca Del Monte, niente, altrimenti l'antenna a te Gianni, poi farà girare, credo che poi spetti a Fabrizio. Intanto Gianni e Claudio Riamuros, dai, signor Ruggito, guarda un po' come segnale con questa emittente, con questa radio qua che sta impiegando, come qualità di modulazione. A te doppio rums. Ehi, dai, poi Claudio mi dirà se la mia radio è satura in questo passaggio o no. Adesso no. No, mi devi dare il controllo così, non mi hai capito. Così me lo devi dare adesso, la radio satura. Avanti Fabrizio. Mica, oh Marco, lo facciamo scaldare Gaetano, che gli facciamo fare 4 giri di lancette. No, più che Gaetano, l'altro, Gaetano con la G, quello con la G maiuscola, quella d'armadio. Quella d'armadio. E ce l'ho tutto già pronto, l'altro. Il Gaetano, quello più piccolo, diciamo, è pronto, è già pronto, tarato e tutto per la 27 con l'altra radio che è dall'altra parte. Io qua sto utilizzando il console 2 con il 747, che lo utilizzo, questo amplificatorino è carino perché queste radio vecchiette che hanno pochi watt, lui almeno gli dà un po' di incremento e va bene. Però questa mi piace, è molto carina, tra l'altro è scenografica, questa radio antica, quando va in trasmissione la luce aumenta o diminuisce a seconda della voce, poi si illumina la scritta in verde onde aereo, cioè proprio, questa è mitica, va bene, quadrato, l'antenna a te. Allora lasciamo un attimino di bianco, c'è qualcuno che sta cercando di entrare, più di uno credo, avanti sul canale 10 che vuole entrare, che ho sentito un paio di colpi di portantina. Vabbè, ma se la portante danno i colpi e poi non parlano. Muros, quant'è il mio segnale lì con massima potenza qua del, di questo baracchino, quant'è il segnale di Amuros? Bene, ok. Allora sta funzionando ancora questo LA1000, va bene, no, io sono in... Allora, la potenza della radio c'è tutta, quindi sono 15 watt, vabbè, seconda marcia, però questo è una bella bestiolina. Questo è quello della RM Italy, Marco, l'LA1000, il più grande che c'è, dai. Scappa, vanno bene quegli amplificatori, quell'azienda fa delle cose fatte bene. Io qua sono poco più di 4, un pochino più su. Va bene, l'antenna è la Sirio, non mi ricordo come si chiama, 857 forse, è quella che comunque c'ha l'anello di plastica per rinforzare i radiali, e poi c'ha più solido, devo dire, l'attacco della bobina rispetto alla mantova, perché la mantova c'è sempre il filettino che poi dopo si usa un po' di watt, col tempo si cuoce e poi si rompe, mentre questa c'ha veramente un bel pezzetto d'alluminio tornito, un bel bulloncino a brugola, fatta bene la parte di collegamento del polo caldo che va direttamente sul PL femmina, un bel lavoro. Va bene, questa è la storia. Allora l'antenna Fabrizio, occhi di gatto. Sì, invece io niente, sto usando sempre la Stellar, non lo so se è una Stellar che ormai è stata ricostruita 3-4 volte, praticamente ci è rimasto solo a pezzi un ibrido, lo stile è stato tutto ricostruito, la gabbietta di fare adesso è stata ricostruita, tutto il rivestimento è stato ricostruito, la base è stata rifatta, ricordo Antonio che avevo rifatto i pezzi, i radiali li ho cambiati nuovamente 4-5-6, ne ho cambiato, li ho rifatti l'altro giorno perché le questi storni me li hanno tutte mangiate, me l'ho rimessa, ma sta sempre andando, 1-1, va benissimo, perché questa c'è quella col bobinone, quindi resiste molto più watt, anche se poi non gli ho mai caricato niente, però credo che più di un kilowatt anche caricando, 1,2 kW non conviene dargli, anche se attacchi che stanno, teoricamente conviene veramente limitarlo, perché se no la fondi, lo so già, a parte i PL e tutto quello che c'è dietro li fondi, vanno bene 200-300 se glieli vuoi dare con questi lineari qua. Io niente, adesso sto usando i K con circa 8-10 e gli altri 30-35 sono modulati, queste sono le mie condizioni. Va bene, dai ragazzi, io per il momento mi allontano, scendo giù un attimo a portare il cane, se ci siete mi fa piacere, a dopo, e se no ritenetevi tutti salutati, Fabrizio, Roberto, Marco, Claudio Di Muros, Gianni, Luca e chiunque fosse qua in ascolto sul canale 10. A frappè, cambio per te, Robè, che te l'ho preso io, e fai girare tu la ruota. Se ci siete, a dopo, ciao. Ehi, dai, buona passeggiata col cane, dai, che rimango ancora un pochettino, poi vediamo. Chi tocca? Mi sembra che ci sia, se non sbaglio il giro, tocca Muros. Avanti Muros. QSL, ok, molto bene. Ciao Claudio, allora, io probabilmente adesso vado, stacco qua, faccio un attimino una puntatina dall'altra parte della scrivania, e anche perché è quasi ora di cena. Magari dopo cena un altro po' di attività probabilmente ci sta. Non prima di fare però una prova, voglio provare il microfono da palmo originale di questa radio che ho, che è molto particolare e mi fa veramente ritornare indietro negli anni, perché è l'SBE piccolino con il tattino rosso ad orecchietta, molto particolare, che avevo con il Catalina 23, che quando lo vedo insomma quasi mi commuovo, e lo voglio collegare al posto della, prima di andare via, al posto dell'SBE da tavolo, vediamo come, se funziona, non so neanche perché è suo, dovrebbe funzionare, vediamo un po', prendi Fabri un pochino, io poi attacco qua il connettore. Eia, prova pure. Però volevo dire una cosa, avevo dimenticato, c'è una testa, avessi testa sarei un drago, capito? Invece sono un drago senza fiamma, ormai spenta, per carità, non mi ricordo nemmeno quello che devo fare dopo. Sì, va bene, anche io, ho un altro paio di passaggi, sono quasi le 8, e poi me ne vado dentro e mi faccio una, me ne vado a mangiare qualcosa e poi me ne sto un pochettino a guardarmi la TV, non so se rientro stanotte. No, vabbè, stavo provando questa cosa colta la sera, vabbè, adesso vabbè. E niente, poi niente, tanto inutile, non me lo ricordo, vedi la testa, riprendi. Buona, ti saluto anch'io, stavo a portare il cane, ci sentiamo dopo, buon continuo con il CEO. Più tardi, se accendete ci sono anch'io. Ciao! Ciao già, ben sentito, ci sentiamo dopo. Ok, va bene. Ok Gianni, ciao, allora a dopo, voi avete sempre questo, infatti c'è l'ora della passeggiata del cagnolino. Io ho messo il microfono da palmo, su originale, vediamo un po', Roberto, come ti sembra questa modulazione? Roberto non risponde, evidentemente si è allontanato. Fabri, come va? Non è amplificata anche un po' cupa come voce, non mi piace molto. E il microfono suo, se parlo così da lontano? No, ti si abbassa ancora la radio, va bene, è un microfono amplificato, va bene, cos'è che stai arrivando 9.30, 25, 9.30 qui, quindi è per quello che ti sento bene, però secondo me se arrivi qualcuno S5, S6 inizia a avere difficoltà secondo me a sentirti di radio. Però è il suo microfonino originale, guarda, è un amore. Vabbè, lo rimettiamo, c'ha la sua staffettina sul fianco, è anche in buono stato, lo rimettiamo lì e ho rimesso ovviamente il microfono, a parte che è anche più comodo il microfono da tavolo. Vabbè, allora ci ritiriamo in buon ordine, io passo un attimo all'altra parte della scrivania e poi scendo per andare a cena, dai, magari ci sentiamo dopo, non so se tu puoi rientri o meno, veramente non so neanche io, dipende anche cosa c'è la televisione, anche se ultimamente quando va in TV ci sono solo esclusivamente cose tristi, cose brutte, due scatole che non ti dico, perciò non so, probabilmente se salgo qua e almeno mi metto un po' a fare qualcosa con le radio. Ok, ciao Fabri, buona serata, un saluto anche io qui in ascolto, Marco Scorpion in QRT, ciao. Ehi, ciao Marco, dai, ci sentiamo magari domani, tanto adesso da domani, ieri oggi ho lavorato, dovrei essere un po' di smart working che dovrei avere in questi giorni, se non mi rompono le scatole che mi cercano, quindi finisco qualche cosuccia e faccio qualche cosa, domani dovrei essere libero, anzi dobbiamo andare anche a Itiri per quella roba. Portare quelle apparecchiature che sono a posto, vediamo così magari riusciamo a accendere il ponte, cambiamo l'alimentatore e così magari saliamo e vediamo che antenna ci vuole su per quella roba, sempre quella roba non nostra, vediamo un attimino di risolverlo un po', non so se domani o dopo. Ci vado con Walter, saliamo un attimino. Va bene, dai, ci sentiamo, buona cena Marco, ci sentiamo, a dopo. Riprendi Roberto e poi fai girare per Claudio. Sì, Roberto mi sa che l'hanno intrattenuto al telefono. Ciao a Claudio, allora ti ho arrugginito, saluti anche a tuo padre e chissà, mai ci sentiamo dopo cena. Ciao Fabri, allora a scappa di tutto per i cuticini, per quel lavoro, sì, sapevo di questa cosa. Vabbè, niente, fatemi sapere se sono libero, magari vengo anche io. Ok, ciao. Ok, ciao, buona serata anche a te, anche io adesso faccio QRT, dai, così scollego questa radio, ricollego tutto come era prima e me ne vado a mangiare una cosa. Dai, ciao a tutti, QRT da parte mia esecutivo. Ciao. Qua. Sono io che sto ascoltando. Ci sei tu che stai ascoltando? Beh Gianfra, io sono rientrato adesso alla passeggiatina col cane, che ore sono? Le 8:10, ancora un altro 20 minuti di radio e poi ci va a mangiare, KK. Io pensavo che andavo a vedere la partita. E quale partita? Stavo guardando i programmi, il Milan credo che ci sia. Il Milan, allora c'è la Coppa Italia, qua c'è, non lo so, accendiamo, vediamo subito, cioè non è che abbiamo problemi qua.